24 mattino. E ritorniamo insieme, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666 sul mandato che la TV di Stato dovrebbe avere. E vi invito a non buttarvi in trincee così di parte con parolacce terribili, perché non è questo lo scopo della discussione che avremo nel corso di 24 mattino con il professor Sartori. Vorremmo capire, visto che da tempo non ci si interroga in maniera anche serena sul ruolo e lo scopo di una TV pubblica, se esiste una diversità della TV pubblica o semplicemente se esiste un ruolo del giornalismo intellettualmente onesto e a questo ruolo si devono limitare tutti. Cominciamo però con discutere di una sanatoria che tocca da vicino milioni di persone, di famiglie e di badanti in Italia. Stiamo parlando naturalmente di una sanatoria che riguarda, attenzione, non solo le badanti ma chiunque lavori in un nucleo familiare, per cui in generale chi porta un contributo a un nucleo familiare può far parte di questa emersione. Ne parleremo con il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, che ringrazio per il suo tempo, buongiorno. Grazie, buongiorno a voi. E ne parleremo con una delle dirette interessate che raccoglie tante storie, tante testimonianze proprio per la sua posizione, per la sua esperienza in prima linea. Si chiama Tatiana Nogailic. Buongiorno, benvenuta Tatiana. Buongiorno a voi. Ed è la presidentessa delle Assomoldave, un'associazione che a Roma cura appunto gli interessi, i bisogni delle badanti. Dovrebbero essere giornate di gioia per voi che lavorate in questo settore, è la possibilità di emergere dalla clandestinità. È così, Tatiana Nogailic? Praticamente è così, tante persone saranno messi in regola con questa regolarizzazione, diciamo, però pure altre tante in base a questa legge sono stati licenziati, per esempio parlo sempre quella che accade a Roma, e soffriranno, diciamo, sono persone che non vivranno più, saranno o espulsi o non potranno vedere i suoi cari, non potranno avere dei contributi, non si sa cosa sarà del loro futuro. Quindi lo chiedo a lei, prefetto, c'è anche questo risvolto che non si può negare, non succede solo nel Lazio, i telegiornali regionali e la stampa locale in questi giorni ne ha dato lunghi e sostanziosi rapporti in diverse testate che ora non so, sto a citare, e era qualcosa che il Viminale aveva calcolato? Beh, purtroppo questo è certamente un elemento, come dire, di malcostume o anche di necessità, in qualche caso marginale. Comunque certamente noi dobbiamo trovare il modo di garantire i lavoratori e al tempo stesso i datori di lavoro e impedire fenomeni come questi, insomma, cioè che chi in sostanza si è approfittato fino adesso di persone proprio per la loro condizione di difficoltà oggi se ne liberi pensando così evidentemente di non pagare i contributi e soprattutto di non mettere in regola queste persone. Troveremo certamente il modo di dare tutela a questi lavoratori. Dunque c'è la possibilità a questo punto di emergere da una situazione di irregolarità con il versamento di un contributo una tantum, diciamo così, che sana la situazione fino al 30 giugno. C'è questa possibilità e dobbiamo dire che sembra che moltissimi di coloro che impiegano senza versare contributi delle badanti clandestine abbiano intenzione di percorrere la strada prevista dalla legge e verseranno questi contributi e poi man mano usufruiranno tra l'altro anche di una serie di sconti fiscali. Questo è un aspetto un po' meno esplorato ma che è giusto si conosca. Ci sono tutta una serie di possibilità per coloro che metteranno in regola, per i datori di lavoro che metteranno in regola le badanti pagheranno sì dei contributi, ma avranno la possibilità, calcolando le proprie tasse annue, di avere e delle detrazioni e delle deduzioni. Questo è spiegato diffusamente anche sul Sole di oggi, se avete bisogno di questo servizio. Ma tornando alle badanti che oggi si trovano praticamente in mezzo a una strada, Tatiana, e raccontaci la situazione di queste donne. In molti casi, non tutti naturalmente, sono moldave, ma è scattata anche una specie di concorrenza con donne di altra nazionalità. Perché? Tanto sono moldave, ha ragione lei, ci sono pure ucraine di altre nazionalità. E adesso c'è veramente sta accadendo una guerra fra i poveri, così dire, fra rumeni e moldavi, perché le donne rumene, essendo in comunità europea, non hanno più bisogno di permesso di soggiorno e lavorano, hanno cominciato pure a abbassare il prezzo di cosiddetto lavoro delle badanti. Se una ragazza che viene dalla Moldova pagando il viaggio 4.500 euro, una rumena arriva con 100 euro, 80, 60, dipende dalla regione da dove si muove, dalla Romania. Ovviamente loro lavorano a ore, possono andare a 6 euro a ora a Roma, ho sentito. Ci sono moldavi che con 6 euro non possono andare, ovviamente per il discorso sempre di ragionamento che ho fatto prima. Mario Morcone, ma guardi che noi siamo d'accordo con questa legge, perché pure noi, sentendo tutti questi reati e tutte queste persone clandestine, non è facile stare qua e non vedere la tua famiglia per 6-7 anni. Molto può accadere che arriviamo a sindrome Italia, che è accaduto in Romania qualche anno fa. C'è una malattia che è molto diffusa in Romania, donne che tornavano da Italia anni fa, che non erano messe in regola, che non vedevano per anni i loro figli, perdendo tutto, marito, figli. C'è una malattia che si chiama sindrome Italia. Allora noi vogliamo evitare sindrome, per le nostre badanti moldave. Tatiana, sindrome Italia? Si chiama sindrome Italia. Timișoara si è fatto una ricerca su 2.000 badanti, donne che lavoravano in Italia, e uscito fuori questa malattia, cioè loro si sentivano perseguitati, soffrivano di depressioni, malattie che fanno parte un po' psichiche, si può dire così, ma noi abbiamo pure noi casi fra le donne che le assistiamo perché si sono malate fra tempo qua, cioè non vedendo la famiglia, perdono mariti, perdono chiaro. Figli, crescono senza un lavoro durissimo, lo ricordiamo, non a caso si ricorre agli stranieri proprio perché è difficile trovare, in realtà diciamocele fino in fondo, le cose, anche italiani che siano disposte a farlo, e non importa a quanto ammonti la cifra che una famiglia è disposta a sborsare. È un lavoro decisamente logorante, difficile e che isola e causa molti casi di depressione. Tornando invece all'aspetto legale di questa sanatoria, prefetto, mi rivolgo a lei. Moltissime badanti hanno detto al proprio datore di lavoro: lo paghiamo noi, li paghiamo noi questi 500 euro, non ci licenzi, versiamo noi questi 500 euro per la nostra regolarizzazione. Questo è un comportamento legale? Ma certamente no. Certamente purtroppo casi come questi ne registreremo. Io spero che gente come noi, che pretendiamo di essere uno dei paesi, tra gli 8 paesi più industrializzati, che abbiamo una democrazia avanzata, sappiamo dare anche una risposta in termini di civiltà e di correttezza nei confronti di questi lavoratori che oggettivamente fanno ormai parte molto spesso delle nostre famiglie, e sono sicuro che moltissima parte degli italiani faranno così. Poi naturalmente ci saranno casi anche di brutte storie, ma naturalmente non esiste un provvedimento che possa risolvere i problemi di tutti. Io invito sinceramente gli italiani e le famiglie a dare una risposta di corretta sotto il profilo non solo legale, ma anche sotto il profilo dei sentimenti, per persone che si dedicano a noi molto spesso molto oltre quello che in qualche modo può essere retribuito. Perché tante badanti sostituiscono l'assistenza a domicilio, esatto, che in altri paesi è garantita anche dallo Stato. Si pensi semplicemente che con l'invecchiamento della popolazione in tutti i paesi europei ogni anno aumentano, per esempio, il numero di anziani che entrano in strutture, in case di riposo, lunga degenza, case assistite. In Italia è praticamente stabile da decenni questo numero. Questo significa che l'assistenza sul territorio è fatta veramente da tutta una rete, da questo queste persone, e la sanatoria per le badanti rientra in quest'ottica. Lei però, prefetto, ha anche auspicato che presto, dopo le badanti, si passi alla sanatoria, alla regolarizzazione degli altri lavoratori. No, beh, io non ho auspicato, nel senso che questo lo decide il Parlamento e il Governo. C'è un fatto che non può essere ignorato, che parte anche consistente del nostro sviluppo economico è affidato a persone di altre nazionalità, larghi settori dell'agricoltura, soprattutto al sud, ma anche degli allevamenti al nord, ma anche parte dell'edilizia, e credo che di questo non si possa non tener conto, ma è una decisione che appartiene naturalmente al Governo e al Parlamento. Lei semplicemente prende atto, non si può ignorare, non si possono ignorare questi numeri. Tornando a Tatiana, rappresentante delle badanti, va anche sottolineato che spesso le badanti moldave, e non solo, hanno dei titoli di studio che consentono loro nei paesi d'origine di svolgere mansioni ben diverse. Sì, è così, perché maggior parte di noi siamo diplomati e laureati. E ovviamente qua, quando ci troviamo qua, tu sei costretto, ma nessuno ci ha invitato, siamo venuti da soli per le necessità e i bisogni che abbiamo, sei costretto a svolgere un altro tipo di lavoro, però se siamo regolarizzati, che ben venga, poi una volta avuto il permesso Italia ti dà la possibilità di fare dei corsi, dei aggiornamenti, di fare un master, di fare università, ci sono borse di studio gratis. Italia ti dà la possibilità, però deve essere in regola. Quindi la regolarizzazione non deve essere un traguardo, deve essere un punto di partenza, certo, per poi continuare. Pure Italia guadagna, perché noi contribuiamo con i nostri contributi a versare IMSS, poi possiamo comprare una casa qua, comunque i nostri soldi possono rimanere qua, diciamo. Come posso dire? Sì, è un meccanismo. Noi partecipiamo al PIL italiano. Senza dubbio. È un meccanismo di guadagno reciproco, lei sottolinea, Tatiana. Ma io mi chiedo, la Repubblica Moldova ha una popolazione di 4 milioni e mezzo di abitanti. Parliamo della Moldavia, potremmo parlare naturalmente di altri paesi. In questo momento con lei ci fermiamo. E c'è questo esodo di donne, tra l'altro donne laureate, quindi formate altrove, che sono costate al governo in generale. Cosa fanno le autorità consolari sul territorio e cosa fa il governo moldavo per arginare quest'esodo? Loro hanno fatto tanti, diciamo, hanno messo tanti per non farci uscire dal paese, per questo noi veniamo tutti clandestini, pure da lì usciamo con visti falsi, con visti per Germania, però arriviamo in Italia. Il governo fa di tutto per fermare questo esodo, diciamo, di cervelli. L'hanno nominato proprio così, e infatti lo scorso anno è uscita un disegno di legge, se non mi sbaglio, su professionalità come insegnanti, perché nei paesi che stanno più lontano dalla capitale accade che professoresse sono andate via e quelli che insegnano prendono bambini dai banchi di scuola che non hanno studiato per questo. Il governo ha detto giovani specialisti che stanno in Europa, perché maggior parte stiamo in Italia, e giovani specialisti che si trovano in Europa vogliono tornare a casa, governo le alloca uno spazio locativo, diciamo, di 5 anni a Chisinau gratis, poi si possono comprare questo appartamento. Sono incentivi, dunque degli affitti agevolati, sì, che poi porteranno al possesso dell'appartamento, quindi è vissuto come un problema questa perdita, certo, di donne. Di più, si sente di più sui nostri bambini, perché ci sono pure bambini, diciamo, abbandonati, che non tutti le mamme siamo uguali, diciamo, no? Che vengono lasciati nella Repubblica Moldava. Sono lasciati dai nonni e dai figli, però chiedo scusa, un bambino quando non vede la sua madre per 6-7 anni, una ragazza che sta in pieno sviluppo, diciamo, cosa accade a questa ragazza, cioè moralmente, psicologicamente? Non si riconoscono più. Io lei l'ha vissuto? Non ho visto mio figlio, io l'ho vissuto in prima persona, non ho visto mio figlio per 2 anni. Quando l'ho rivisto, chiedo scusa. Grazie Tatiana, capiamo, comprendiamo lo stato d'animo, e ci sono, prefetto, anche queste tragedie dietro queste persone che lavorano nelle famiglie da anni, e in questi giorni si sono viste in molti casi licenziate. Certo, non è la maggioranza, e lo ripetiamo. No, non è la maggioranza, non lo deve essere, sono casi episodici, sporadici, nei quali però noi dobbiamo saper dare una risposta e cercheremo di darla per mettere tutti i lavoratori in condizione di vedere riconosciuti i loro diritti. Ma soprattutto io spero davvero che la gran parte degli italiani sappiano rispondere a questa opportunità, ripeto, con rispetto verso le altre persone che portano avanti poi le nostre famiglie, i nostri bisogni, le nostre necessità, che ci consentono di vivere una vita serena senza approfittarci della loro debolezza. Questo è l'auspicio davvero che faccio, e questo, al di là degli auspici, è quello che noi tenteremo comunque di garantire, fermo restando che poi la storia di migrazioni sono sempre storie in qualche modo di debolezze, di fragilità, e quindi sono storie anche sfortunate molto spesso. Comunque ci sentiremo presto, dopo che sarà stato avviato un percorso, per vedere quali sono le problematiche che emergono e soprattutto in che percentuale si è ottenuta questa regolarizzazione, questa emersione, che poi è l'obiettivo finale della sanatoria, in che percentuale invece si è pagato un prezzo ancora più alto in termini di sofferenza, come abbiamo sentito tante storie alle quali possiamo ricondursi come popolo che in passato ha dovuto lasciare l'Italia per emigrare altrove. E ritorniamo insieme, ci sono città parallele, ci sono città sotterranee, addirittura ci sono città in Italia in cui ci sono culti particolari, per esempio il culto di un teschio, quello di Lucia, una ragazza morta prima di sposarsi, al quale i napoletani chiedono ogni cosa, dalla liberazione di un parente dal carcere al matrimonio di una figlia. Un reportage assolutamente suggestivo che Radio 24 manderà in onda, ne parleremo con l'autrice alle 8:40. Raffaella Calandra sarà con noi. Prima però vogliamo dare voce anche alle vostre istanze, ai vostri appelli. Vi abbiamo chiesto: partecipiamo serenamente a una discussione sul mandato. Qual è lo scopo della TV di Stato? Oggi che il mondo globale è cambiato, oggi che è cambiato il nostro modo di acquisire le notizie, quale può essere la diversità, la peculiarità, il fine di una TV pubblica? E su questo si è espresso anche il Presidente del Consiglio venerdì, sentiamolo. Siamo maggioranza, non vogliamo fare ciò che l'altra maggioranza di sinistra ha fatto in passato, quando la RAI ha continuato ad attaccare l'opposizione. Quindi non è vero che c'è la libertà di stampa o di televisione e che è compito di un media è quello di attaccare chi governa. È vero invece che c'è una sinistra che attacca gli altri e c'è una maggioranza democratica che non attacca la sinistra. E il mandato che io vorrei che la nostra televisione pubblica avesse, e che è il mandato che corrisponde, ho sondaggi precisi al riguardo, alla volontà degli italiani che pagano la RAI col soldi di tutti, e che la RAI faccia veramente il servizio pubblico e che non attacchi né governo né opposizione. E ci avete già scritto: lo scopo della TV di Stato è dare le notizie, non importa se sono sgradevole al governo, e non deve avere pretesa di controllare le notizie, la libertà di stampa, questo è lo scopo della TV di Stato. Non sono firmati però questi sms. 349-238-6666 per i vostri contributi e per la vostra idea su questo aspetto del bene pubblico che è l'informazione di Stato. Abbiamo scomodato anche il professor Giovanni Sartori. Buongiorno, benvenuto in trasmissione, professore. Buongiorno. Professore benemerito e tra l'altro destinatario di laurea honoris causa dall'Università di Guadalajara, dall'Università di Buenos Aires, Università spagnole, messicane, rumene. Io cito tutti questi titoli, professore, non per piaggeria, ma per sottolineare che lei ha naturalmente una visione internazionale. E all'estero è difficile vedere una TV di Stato che sia così oggetto di articoli, cioè che invece di essere semplicemente autrice, promotrice, motore di informazione, è al centro di informazione, dibattiti, polemiche. Perché? Qual è lo scopo della TV di Stato oggi, professore? Lo scopo della TV di Stato è di fornire, non ha un mandato, questa è un'espressione impropria, è di fornire un servizio pubblico il che vuol dire in questo caso nell'interesse del pubblico, non pubblico nel senso che si indirizza al pubblico, ma che serve interessi pubblici, e cioè interessi di informazione seria, accurata e tale da costruire una pubblica opinione, perché questo ormai la televisione è molto più dei giornali, informa, ma nell'informare costruisce l'opinione del pubblico, che è poi quella che si esprime nelle elezioni. Quindi secondo lei non esiste un mandato della TV pubblica, è semplicemente aderente al mandato del giornalismo intellettualmente onesto? Sì, ma è anche parte integrante di un sistema democratico e costituzionale, perché se un sistema politico non ha un sistema di informazione pluralista e libero, non è un sistema politico liberal democratico. La caratteristica dei sistemi dittatoriali è appunto quella di trasformare l'informazione del servizio pubblico in propaganda di Stato, cioè silenziare tutte le voci critiche e fare della televisione la gran cassa di rinforzo del potere, in questo caso del potere dittatoriale in carica. Quindi le parole di Berlusconi, se non sono così espressione di isterismo, di complesso di persecuzione, l'uomo sembra un po' logorato, se non sono espressione di uno stato d'animo di persona così esasperata e stanca, sono ancora più gravi, perché qui siamo veramente al punto nodale nel quale i sistemi di libertà democratiche vengono trasformati in sistemi di ingabbiatura dittatoriale e persino totalitaria. Insomma, le prime cose che fa una dittatura sopprime la libertà di informazione e di Stato. E questa è stata... Senta, abbastanza allibito, perché queste affermazioni sono state molto gravi. Professor Sartori, e quindi c'è anche, lei ha nominato la qualità, quindi un'informazione di qualità, quella è una garanzia, e c'è Aldo Grasso, per esempio, sul Corriere della Sera nomina l'autorevolezza. Ma se noi vediamo a ogni cambiamento di governo il cambio dei direttori, dei vertici, ci si chiede, chi non bazzica insomma i corridoi dell'informazione, chi fa altro nella vita, normalmente si chiede, ma com'è possibile? Non si può semplicemente scegliere dei vertici, dei direttori per la loro competenza, per la loro professionalità, e questo salvaguarderebbe anche questa autorevolezza dell'informazione. Quindi forse la RAI dovrebbe percorrere naturalmente una riforma, un periodo di riforma. Come si garantisce questa autorevolezza in una TV di Stato? Cosa andrebbe cambiato? Cosa cambierebbe lei? Il modello è sempre la BBC inglese, che è una televisione pubblica. Poi ci sono anche le televisioni private, ma la televisione pubblica ha meccanismi di nomina dei suoi dirigenti che sono sottratti alla lottizzazione e che ha dato prova di parzialità e anche di bravura. La BBC informativa, no? Con la musica o il varietà, ma insomma ha sempre dato prova e obiettività, insomma. Possono fare le meccanismi che creano l'imparzialità di un ente, sì. Anche la Corte Costituzionale si cerca di farla in modo che un organo imparziale, lì si tenta sempre l'utilizzazione, ma insomma sì, ci sono paesi nei quali la funzione è pubblica, quindi e su tutto, su cose belle e su cose brutte. L'informazione non è solo sulle cose che convengono o reclamizzano o propagandano, questo è si dice il governo, quindi si possono trovare, sono state trovate, e molte, direi, la informazione pubblica italiana nel novero delle democrazie occidentali è la peggiore di tutte come asservimento al potere politico, anche perché c'è l'anomalia che il capo del governo controlla la televisione pubblica e controlla le televisioni private importanti. Quindi, invece la BBC non è un monopolio che già di per sé non dovrebbe essere accettabile. Invece la BBC, tra l'altro, non dipende da Downing Street, ma appunto ha dei meccanismi di nomina che garantiscono l'indipendenza. Esatto. E se si va sul sito, per esempio, di PBS, parlo della Public Broadcasting e degli Stati Uniti, che è parzialmente pubblica, nel senso che ha dei fondi che arrivano da fondazioni, si trova un capitolo dedicato agli editorial standard, alle policy, i principi enunciati a cui ispirarsi: il primo, la trasparenza, l'integrità, i membri sono responsabili della difesa del prodotto dalle pressioni politiche. Sul tema qualità si cerca la migliore qualità disponibile in termini di creatività, intelligenza, giustizia, innovazione tecnologica, e gli scopi sono sintetizzati. Il PBS è un altro esempio di un eccellente servizio di informazione televisiva, seria, obiettiva, approfondita, ed è pubblica solo nel senso che viene sussidiata dai privati che volontari. Io negli Stati Uniti ho sempre mandato un mio contributo alla PBS. Certo. E così fanno le fondazioni, quindi non è pubblica nel senso che dipende dallo Stato, dal potere federale americano, ma è pubblica nel senso che riceve spontaneamente fondi dal pubblico, e questo le dà una straordinaria indipendenza, ma anche il fatto è che è una televisione di straordinaria bravura professionale, tecnica. Insomma, innegabile, anche la radio, NPR, National Public Radio. Ora, però, in quei salotti, i politici, studi televisivi, salotti se si pensa all'arredamento con divani, i politici subiscono delle domande pressanti, terribili, e molto è difficile, insomma, passare in mezzo a quel cecchinaggio giornalistico, eppure tutti ne fanno un vanto dal passarci, ci vanno, vogliono essere intervistati in quel modo. Perché il politico italiano non capisce che anche a lui o a lei conviene subire le domande giuste? Bisogna essere anche bravi però per fronteggiare dei giornalisti bravi. I nostri politici oramai sono così, dettano loro quasi le domande e se la cavano con rispostine di 3 minuti, senza dibattito, 3 minuti, di 3 secondi a volte, anche senza nessun dibattito. Insomma, è un sistema di veramente tra i più vergognosi dell'Occidente. In America, appunto negli Stati Uniti, la PBS è dura nelle interviste, ma molto, molto informata, molto obiettiva, e veramente ci vanno, anche se così può essere per loro pericoloso, perché è una televisione di nicchia in prima istanza, ma la vedono i giornalisti, la vedono gli uomini politici, la vedono, insomma, l'elite che conta la vede, quindi trasmette poi questa cultura obiettiva giornalistica a tutto il paese. E Paolo Garimberti, presidente della RAI, ha dichiarato che le notizie non hanno odore né sapore. Abbiamo citato il codice etico di altre televisioni, quindi sono andata a cercare anche il codice etico della RAI, che è nascosto sotto nel sito, e sono 43 pagine, non una pagina, a differenza di quello di PBS, e si parla espressamente di pluralismo, cioè uno degli scopi etici della RAI è il pluralismo. Ma qual è la differenza allora tra pluralismo e spartizione delle poltrone? Perché la lottizzazione non nasce certo con questo governo, è un vizio d'origine di questa. No, è un vizio originario, ma insomma, prima però intanto era una lottizzazione tra partiti diversi, quindi tutti un po' sospetti di propaganda, però propaganda opposta, quindi c'è un pluralismo di voci, se si vuole, tutte non molto ben informate, tutte non molto obiettive, però almeno c'era una varietà di voci. E invece ora abbiamo una situazione di monopolio di tutta l'informazione da parte di Berlusconi, sia pubblica che privata, che cancella anche quel modesto precario giornalismo del passato. Ma almeno prima c'erano punti di vista diversi, perché c'era una lottizzazione tra partiti diversi e opposti. Grazie professor Sartori. Oggi abbiamo affrontato il tema del mandato della TV di Stato. Come avete sentito? Buona giornata, professore. Buona giornata, grazie. Anche da lui stesso non esiste un vero e proprio mandato, ma è semplicemente il mandato del giornalismo onesto, l'autorevolezza, l'informazione, la qualità. Questa è la sua opinione. E oggi, in primo piano, i fatti del giorno. Sono stati rilasciati ieri sera tutti i 16 membri dell'equipaggio del Buccaneer, il rimorchiatore italiano sequestrato l'11 aprile dai pirati somali nelle acque del Golfo. Berlusconi apre alle gabbie salariali, la Lega esulta. Il Presidente del Consiglio, in un'intervista al quotidiano di Napoli Il Mattino, ha aperto ieri all'ipotesi di aggancio dei salari al costo della vita, ovvero alle gabbie salariali. E lo scontro aereo-elicottero a New York. Sono state recuperate le sette delle nove vittime della collisione tra l'elicottero e l'aereo da turismo avvenuta sabato alla foce del fiume Hudson. In Iran il regime ha ammesso torture, ma vuole processare Mussavi, e dunque le autorità hanno ammesso che alcuni degli oppositori incarcerati dopo le elezioni del 12 giugno sono stati sottoposti ad abusi e torture. Hanno annunciato che il direttore della prigione di Karizirizak, il simbolo della repressione del regime, è stato arrestato. Tutte notizie che approfondiremo naturalmente nel giornale Radio delle 9. Noi ora vogliamo continuare nel nostro viaggio nella Napoli che non conosciamo. Vi abbiamo annunciato le città parallele. Prima però un debito da pagare, 349-238-6666. C'è chi dice il giornalismo propriamente detto. Questo è il mandato della TV pubblica, dunque pagata dal canone, dovrebbe essere libera e imparziale. Questo è un altro messaggio: fornire le notizie e contribuire col suo operato alla formazione dell'opinione pubblica. Un altro messaggio, e sono più o meno tutti su questo tono. La riforma della RAI, Berlusconi faccia la riforma della RAI, questa è un'altra invocazione che arriva da parte di un'ascoltatrice. Raccontare i fatti, esprimere le opinioni, essere anche schierati ma senza ambiguità. L'opinione di Fabrizio, che ci scrive da Venezia. Non si può dare al governo di turno la gestione dell'informazione pubblica. I contributi sul mandato, così come lo vedono coloro che il canone lo pagano, della TV di Stato. Noi continuiamo con questo eccellente reportage. Ne abbiamo sentito una parte questa mattina alle 6.15, andrà in onda anche alle 13.15 su Radio 24, il senso del viaggio nella città che sta sotto. Per raccontarcelo abbiamo con noi naturalmente l'autrice, giornalista di Radio 24. Buongiorno, benvenuta Raffaella Calandra. Buongiorno Irene, a te e ai nostri ascoltatori. Come ti è venuto in mente di cercare Napoli sotterranea? Cos'è che ti ha dato lo spunto per questa ricerca? Napoli è una città che da sempre ha una parte nascosta, ha un viso nascosto, è la città di sotto, la città che nei secoli della sua storia si è progressivamente stratificata e poi coperta, e progressivamente negli ultimi anni questa Napoli sotterranea sta diventando più nota e anche più scoperta. Si scavano e vengono fuori zone nuove, scavi nuovi, oltre a quelli che conosciamo più noti del vecchio porto che sta emergendo sotto Piazza Municipio, ma ci sono intere zone parallele che sono già emerse e che è possibile attraversare, non tutte sono aperte al pubblico, e per questo siamo andati a vedere in alcune di queste zone, anche alcune non aperte al pubblico, che cosa vuol dire vivere Napoli dal di sotto, quindi raccontare la città che con tutte le sue contraddizioni raccontiamo spesso quasi ogni giorno nella cronaca, vista dalla sua storia più antica, dagli antichi acquedotti greci diventati ricoveri di guerra, quando poi non discariche di immondizia, ma soprattutto siamo andate ora a rivedere in questo enorme ventre della città nascosto la prosecuzione di un antichissimo culto tutto partenopeo, che è quello del culto delle anime del purgatorio, che ancora si conserva a Napoli nonostante il divieto della Chiesa, per cui c'è una sorta di scambio di richieste e di favori tra la città dei vivi e quella dei morti, tanto che, come ebbe a scrivere tra gli altri anche Italo Calvino, non si sa più quale sia il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. È estremamente interessante, Raffaella, e visto che ci hai nominato questo culto che abbiamo anticipato nel corso della trasmissione, il culto di un teschio, e a chi apparteneva innanzitutto questo teschio? Ce ne sono tantissimi, è un culto che non è, diciamo, rivolto in particolar modo ad una persona in particolare, è il culto in generale di quelle che Napoli chiama le anime pezzentelle, che sono i morti, soprattutto nell'epidemia del 1600, che non ebbero degna sepoltura e a cui poi le famiglie dedicavano le proprie cure e le proprie preghiere, chiedendo in cambio un aiuto nella propria vita concreta e quotidiana, aiuti molto materiali. Tra tutti questi teschi, circondati da leggende, tra tradizioni di vario tipo, ce n'è soprattutto uno che è diventato più famoso e che ora è anche meta anche di turisti, che è quello del teschio di Lucia, il teschio della sposa, col velo da sposa, che è possibile vedere nell'ipogeo della chiesa di San Maria ad Arco, in via dei Tribunali, dove ancora oggi ci sono tanti bigliettini e tante richieste soprattutto delle famiglie che abitano in zona, che confermano come, appunto, come dicevamo prima, è un culto che continua anche nei giorni nostri. Noi abbiamo fatto questo viaggio in tante zone della Napoli sotterranea, soprattutto in quella. Sentiamone un pezzo, cominciamo ad anticipare qualcosa di questo tuo lavoro straordinario e ascoltiamo dunque questo reportage di Raffaella Calandra, che ci porta nella Napoli sotterranea, di fronte anche a delle realtà che pochi di noi conoscono, come il culto del teschio di Lucia, una ragazza a cui è successa una cosa terribile, cioè è morta prima di sposarsi. Sentiamo. Attraversando anfratti usati come fosse dei morti, ma diventati talvolta anche alcova degli innamorati, davanti a teschi anonimi addobbati come madonne in processione o coinvolti in vicende molto terrene di tradimenti, amori e duelli, capisci perché la Napoli, lussureggiante di vita, sia anche la città col più singolare, costante e intimo rapporto con la morte. I luoghi di questa terza città Antonio Piedimonte li studia e li racconta da tempo in diversi saggi sui misteri della Napoli parallela. Una città che nasce intorno a una tomba, la tomba della Sirena, e poi nel corso dei millenni mantiene questa intimità con l'aldilà. Ed è un viaggio che praticamente non finisce mai, perché insomma basti pensare al fatto che ancora oggi il culto del purgatorio sopravvive. Ci sono dei segni straordinari che si possono vedere nell'ossario che sta proprio nel cuore di Napoli, via Tribunale, tutta la chiesa di Purgatorio ad Arco. Davanti a un teschio particolare coronato da un velo da sposa, la leggenda vuole che sia il teschio relativo a una ragazza morta poco prima di sposarsi, una certa Lucia. Davanti a quei resti, ancora oggi, si può vedere tanto, sempre fiori freschi, rosari, ma soprattutto ci sono dei bigliettini scritti il giorno prima, dove le persone chiedono delle grazie a Lucia. Si va dal fai uscire presto mio marito dal carcere, aiuta mia figlia a trovare un lavoro. A trovare marito, ad avere figli, insomma. E quali sono gli altri aspetti che tu esplori in questo reportage, Raffaella? L'uso ad esempio, che Napoli ha fatto del suo sottosuolo in tempi di guerra. Queste enormi cavità, perché Napoli è fatta di tufo, un materiale che, come ci racconta, tra gli altri abbiamo sentito anche Henry De Luca, è un materiale molto, molto friabile, che allo stesso tempo è un po', forse rappresenta bene anche quasi l'anima di Napoli, perché è così primitivo e si ribella ad ogni forma di intonaco messo al di sopra. Queste enormi cavità erano state già costruite dagli antichi greci come un acquedotto per la città e poi sono state utilizzate come rifugi in tempi di guerra. Così, ad esempio, noi siamo stati sotto Piazza Cavour e poi anche al cimitero delle Fontanelle, ma sotto Piazza Cavour, in questa enorme zona dove al di sopra la Napoli brulica di traffico e di voci, qui abbiamo visto dove questi anfratti erano diventati praticamente le case delle famiglie che avevano dovuto abbandonare le proprie abitazioni durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Ed è possibile vedere i graffiti che avevano lasciato sulle mura, che testimoniano i bombardamenti, le acconciature dell'epoca, i tanti oggetti quotidiani. E questo percorso che tu hai fatto è accessibile a tutti? Non completamente, ci sono delle parti che sono accessibili a tutte e ci sono delle parti che sono ancora scavate, che noi abbiamo potuto vedere, che cerchiamo un po' con una sfida, diciamo, di raccontarvi con i suoni e con le parole, che invece ancora non sono accessibili. Altre invece, come il cimitero delle Fontanelle, che è visitabile soltanto a maggio, durante il maggio dei monumenti di Napoli. Grazie a Raffaella Calandra, lo ascolteremo per intero alle 13:15 questo reportage sulla città sotterranea. Buon lavoro naturalmente anche per futuri racconti che sicuramente lei ci sfornerà, giornalista di Radio 24 con il gusto della ricerca e la curiosità. Noi ci fermiamo per oggi, 24 Mattino ritorna come sempre, se volete, alle 7:15 di domani con un'intervista a un corrispondente straniero che vive in Italia. Da Irene Zerbini, buona giornata.